Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. iPad, blog, forum, app, iTunes sono mezzi ormai sdoganati nella vita di tutti i giorni, sempre più multimediale. E anche se è difficile immaginarli in classe, sono diverse le scuole che li hanno adottati nonostante la crisi. Esistono nel nostro paese realtà molto proiettate sulle nuove tecnologie, tanto da essere andate ben oltre gli ebook, senza troppo pesare sui bilanci delle famiglie. Uno degli esempi più significativi di scuola 2.0 in Italia è l'ITIS Maiorana di Brindisi, ma c'è anche l'esperienza dell'Istituto Comprensivo di Manzano, in provincia di Udine. Nel 2009, insieme ai docenti, abbiamo iniziato a scrivere libri di approfondimento per alcune discipline. Nel 2012 questi contenuti sono passati in formato digitale e sono stati arricchiti di diversi contenuti multimediali, foto e video. Si fruiscono attraverso l'iPad. Al di là di tutti i problemi strutturali che ha la scuola italiana, e per strutturali intendo quando cascano i calcinacci dei controsoffitti, c'è anche un grande dilemma ideologico che l'attraversa, diciamo, dagli ultimi anni. Da quando sono accorti i docenti italiani che esiste qualcosa che possiamo vagamente classificare come cultura digitale, in un primo tempo hanno provato in tutte le maniere a prenderne le distanze, a demonizzarlo, a classificarlo come qualcosa che naturalmente allontanava i ragazzi dalla retta via, qualcosa di demoniaco, qualcosa che avrebbe buttato nel mondo perverso e dei maniaci e dei predatori delle loro anime, nonché dei loro corpi. Poi improvvisamente si è mosso un moto contrario che dice va bene, benissimo, digitalizziamoci tutti. E quindi la risposta era: o mettiamo delle grandi lavagne che dovrebbero simulare lo schermo del computer, i ragazzi attraverso questa lavagna apprenderanno quello che normalmente con i mezzi tradizionali non si può, o anche altra lettura, invece che togliere di mano ai ragazzi i loro smartphone, i loro tablet, quei diabolici strumentini che li distraggono dalle lezioni, diamogli a tutti, riempiamoli di tecnologia, così finalmente i giovani digitali avranno modo di essere digitalmente nutriti. Beh, a fronte di questo atteggiamento, ho letto proprio ieri un pezzetto uscito in un magazine americano dedicato proprio all'approfondimento delle tematiche legate alla pedagogia. Una signora, Ellie Gross, che è una, oltre ad essere un'editorialista, è una che si occupa molto di scuola, che parla di un esperimento fatto in un'università del distretto di Chicago, dove hanno preso dei ricercatori tre classi di scuola elementare. Ognuno hanno preso 100, tre scuole elementari hanno preso 100 bambini. Nella prima scuola hanno dato un tablet a ogni bambino, nella seconda scuola hanno dato un tablet a ogni 5 bambini, nella terza scuola hanno proprio tolto ogni strumento digitale ai bambini. Hanno fatto come fanno seriamente molte volte nei test che devono avere una loro evidenza scientifica, un test a inizio anno scolastico e un test alla fine. E hanno visto che in realtà i maggiori progressi dal punto di vista dell'apprendimento hanno fatto i bambini che lavoravano in gruppo, in 5 con un tablet. Molto di più di quelli che non avevano un tablet a testa, ma ancora di più di quelli che naturalmente non avevano nulla. Qual è il punto di questa riflessione? Beh, questa mattina voglio spalmarla in realtà sulla nostra situazione nazionale con due persone che di scuola parlano, ragionano, capiscono e stanno anche producendo. Stefano Morigi, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Storico e filosofo della scienza, autore di un libro, Connessi, beati quelli che sapranno pensare con le macchine, edizioni San Paolo. Stefano Morigi, hai letto di questo esperimento? Dammi innanzitutto il tuo commento a caldo rispetto a quello che hai visto. Sì, ho letto di questa ricerca e devo dire che conferma una serie di dati che noi abbiamo anche attraverso le ricerche condotte qui appunto sul territorio italiano. La prima osservazione che mi verrebbe da fare è la seguente, ovvero che i tecnofobici più presenti in Italia e i tecnoentusiasti più presenti appunto negli Stati Uniti sono due facce dello stesso equivoco. E l'equivoco consiste nel fatto di misurare l'innovazione didattica o la transizione al digitale della didattica in termini di quantità di tecnologia che si introduce in un'aula scolastica. Invece le cose non procedono così, perché introdurre delle macchine in un contesto deputato all'apprendimento deve essere un processo accompagnato da una metodologia che tenga conto di quelle trasformazioni che l'interazione con quelle macchine produce in un ambiente della didattica. Semplicemente caricare docenti e insegnanti di tablet o di LIM o di lavagne elettroniche interattive, questo non significa produrre innovazione, questo non significa migliorare la didattica, questo significa semplicemente continuare a vivere nell'equivoco per cui la vera transizione al digitale può essere concettualizzata in termini semplicemente di un aggiornamento informatico. Invece si tratta di una rivoluzione culturale che va affrontata con tutti gli strumenti tecnici e concettuali del caso. Ecco, nel pezzo che ho citato poi c'è una seconda parte, una seconda appendice in cui l'editorialista approfondisce anche un altro aspetto. Dice: questo esperimento sembra un esperimento banale, si dimostra in fondo che funziona meglio a mettere dei gruppetti di ragazzi che interagiscono tra di loro, integrano quello che è il loro lavoro sul tablet con le loro impressioni, socializzano, fanno un network a tutti gli effetti, è un social network fatto di esseri umani che però interagiscono anche direttamente. La macchina, diciamo, è il fluidificatore, è l'elemento di approfondimento. Dice: non è proprio banale, perché negli Stati Uniti, lo dico perché magari essendo il nostro faro, poi su questo dovete darmi qualche spiegazione, si spendono molti soldi per dotare gli studenti delle classi di tablet. In particolare cita una scuola dove addirittura ha fatto un taglio nel 2009 nella North Carolina di 65 persone del suo organico, 37 insegnanti licenziate, proprio per comprare computer a tutti gli allievi. Poi cita anche un altro fattaccio su cui pare che stia indagando l'FBI. Nell'anno scolastico 2013-2014 uno dei più grossi distretti scolastici d'America, quello di Los Angeles, ha fatto un accordo con la Apple per 1,3 miliardi di dollari per dotare 64.000 studenti di un tablet. C'era una ricerca a monte che diceva che avevano avuto grandi risultati, però pare che l'azienda che fa la ricerca avesse tutto interesse a dire che funzionava. In realtà questi ragazzi con i tablet andavano su Facebook, su siti zozzi, queste cose qua, insomma è stato chiuso l'esperimento. La domanda non è, ma non è che tante volte esiste un lecito quanto mai interesse dell'industria di rinseppare ancora di più questi ragazzi digitali di attrezzi, e non è mai sempre perfettamente in linea con quelli che dovrebbero essere gli intenti didattici della scuola? Paolo Ferri, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Professore di teoria tecnica dei nuovi media e tecnologie didattiche presso la Facoltà di Scienza e la Formazione Università Bicocca Milano. Ha scritto La scuola 2.0 verso una didattica aumentata delle tecnologie, Spaggiare Edizioni. Su questa fetta della domanda, non è che vengono visti come i destinatari ultimi di tanta tecnologia? In fondo la scuola digitale diventa anche una maniera per rimpinzarli del terzo tablet di cui hanno a disposizione. Sai perché? Perché abbiamo episodi in Italia di una scuola campione a Genova, cui erano stati dati i tablet, poi sono stati i primi a usarli per filmare le bravate di bullismo nei confronti di un ragazzo disabile, è stato un caso da manuale. Cosa manca in questa filiera? Ma dunque, la filiera è chiara, cioè è ovvio che i venditori di tecnologia fanno di tutto per come dire, inzeppare le scuole. E il loro mestiere, giusto? Di tablet, e questo è il loro mestiere. Manca un adeguato approccio metodologico. In effetti quello che dimostra la ricerca statunitense, che poi è confermata da tanti altri studi, è che la quantità di tecnologia introdotta in una scuola non fa la qualità della didattica, ma può aiutare la qualità della didattica una giusta quantità di tecnologia utilizzata con una metodologia efficace. Ma tu hai dei casi di overdose tecnologica che in realtà non ha sortito il risultato richiesto o sperato, immaginato nel tempo? Ma, in Lombardia è successo purtroppo un grande stanziamento per l'Italia di 30 milioni di euro circa in tecnologia per i licei, e sono stati comprati dei tablet in molti licei milanesi, e spesso questi tablet giacciono in cantina perché non possono essere usati dagli studenti liceali, ci vorrebbero dei notebook. Ma però anche in Italia si è manifestata questa forma di mulinia tecnologica. Generalmente in Italia siamo all'opposto, cioè c'è una sorta di anoressia tecnologica, solo il 9% delle classi sono connesse, e non mi stupisce, anzi mi conforta molto il risultato dello studio americano, perché se lo guardiamo ci dice che gli studenti che ottengono risultati migliori sono quelli che lavorano in piccolo gruppo con la macchina, è il modo migliore per non farli distrarre. È del tutto evidente che in una classe italiana dove l'insegnante è uno solo e si trova a gestire 25 bambini dotati di tablet, è del tutto evidente che questi non studiano ma videogiocano o fanno altro. Invece l'utilizzo di tablet per fare come laboratori virtuali, come modalità di accedere ai contenuti e di produrre contenuti in classe, in piccolo gruppo, è molto efficiente, è molto efficace, lo dimostrano anche i nostri studi della Bicocca. E nello stesso tempo l'altro dato interessante dello studio è il fatto che i bambini che invece non hanno tecnologia sono quelli che hanno i risultati più bassi. Quindi questo dimostra che la scuola deve essere aumentata dalla tecnologia, non può essere riempita di tecnologia, ma gli insegnanti devono essere adeguatamente formati a trasformare le classi in piccole comunità di ricerca. Questo è l'aspetto più interessante, perché il potere di simulazione delle macchine permette di trasformare cercare di trasformare i bambini, lo sono già di per loro, in piccoli scienziati che esplorano il mondo anche attraverso l'utilizzo di tecnologie usate in maniera significativa per gli apprendimenti. Ecco, è chiaro che stiamo parlando di bambini, di classi elementari, di personaggi che in realtà ancora sono agli albori della vita, ma hanno già una grande facilità, una grande manualità, una grande dimestichezza. Questa dimestichezza molte volte viene fraintesa come una capacità di gestire il mondo digitale, ma non è semplicemente questo, non è solo questo, non è così facile l'equazione, sono già bravi a smanettare sui loro computer, quindi naturalmente diamogliene ognuna testa, saranno molto più bravi a scuola. Melog, cronache meridiane. Una paura che hanno gli insegnanti rispetto alle nuove tecnologie è di essere massificati, cioè che tutti poi debbano fare la stessa cosa e quindi in qualche modo che la macchina possa oscurare l'individualità, la personalità dell'insegnante. Questo non è vero, cioè che lo strumento esalta invece le particolarità individuali. Ok, secondo te dov'è la prima sequenza? Io metterei dal banco di Aringhe a Sollievo. Questa è una dimostrazione di un insegnante che naturalmente ha uno spirito analitico superiore alla media dei suoi colleghi e rivela un punto debole, l'antagonismo rispetto alla macchina. L'insegnante si sente quasi un rivale entrare in classe, è un'antica querelle, è la base di ogni filosofia e pensiero luddista. La macchina è l'antagonista, bisogna battere e sconfiggere il potere della macchina perché prevarrà l'ingegno dell'uomo. Stefano Moriggi, è applicabile comunque a quello che stiamo dicendo? Vecchia storia, quello del luddismo che riemerge costantemente. In realtà, quando una tecnologia entra in, facciamo il caso della scuola, in un'aula, evidentemente qualcosa cambia e qualcosa deve cambiare. È successo quando è entrato il libro, che ha plasmato le relazioni oltre che gli arredi del setting d'aula così come lo conosciamo adesso. Dovrà succedere nel momento in cui in maniera sensata verranno introdotte le cosiddette nuove tecnologie nelle aule. Beh, oddio, le aule scolastiche da Gutenberg in poi non è che siano poi cambiate tanto. Esattamente, perché sono ancora plasmate dal libro. Il fatto che ci sia un professore che fa lezione a una platea silente in ascolto è data dal fatto che una tecnologia, quella del libro, in cui sono precipitati tutti i contenuti utili, richieda e produca al tempo stesso quel modello di professore che si fa portavoce del libro, rendendo accessibile alla sua platea silente i contenuti stessi allo stesso tempo nel libro. E se invece introduciamo un'altra tecnologia che invece richiede una partecipazione più attiva e cooperativa, dobbiamo pensare che anche gli insegnanti, prima ancora degli studenti, mettano in discussione il loro modo di far lezione e lavorino per organizzare effettivamente quei laboratori di cui parlava Ferri poco fa. Ecco, Ferri ha detto una cosa, poi la faremo rivedere anche lui, importante, cioè non è che un insegnante solo può, diciamo, gestire il rapporto con la macchina di un'intera scolaresca. È chiaro che il modulo che ha raccontato l'editorialista della rivista americana è un modulo difficilmente applicabile. Se tu dovessi avere carta bianca per riprogettare la classe ideale in cui si muovono i cosiddetti nativi digitali, anche se questo termine, cioè, devo dire, ci ha un po' scocciato, ha segnato il suo tempo, come andrebbe progettata proprio la classe ideale? Io partirei progettando in qualche senso gli insegnanti e le nuove relazioni tra gli insegnanti e i ragazzi, ricordando semplicemente che il web... Un punto zero, uno spazio vuoto in cui si riprogettano le persone. Sì, però ricorderei che il web, quello che noi conosciamo quanto tale, nasce all'interno del CERN, cioè di un centro di ricerca in cui alcuni ricercatori avevano bisogno di uno strumento che consentisse loro di condividere in tempo reale al meglio le loro acquisizioni, le loro ricerche, le loro ipotesi sul mondo. Quindi la classe dovrebbe essere riprogettata ripensando alle logiche e alle dinamiche sottese a una comunità di ricerca in senso proprio. Ecco, vediamo se Paolo Ferri, il professor Paolo Ferri, che insegna teoria tecnica, nuovi media e tecnologie didattiche alla Bicocca di Milano, vediamo se riusciamo a concretizzarlo in un modello meno criptico, in soldoni, cosa bisognerebbe fare? Qual è l'inizio della rivoluzione? Quale sarebbe? Perché abbiamo capito che l'illusione di dare tanta tecnologia nelle scuole, che molti stanno perseguendo, non basta dire diamo il tablet ai ragazzi, i ragazzi poi col tablet ci fanno quello che ci fanno ogni giorno dal divano di casa loro, ci vanno nei social media, ci chattano, ci seguono le loro giuste derive di curiosità, ma non apprendono. Trasformare questi strumenti in strumenti di apprendimento, si tratta di impostare la didattica in maniera nuova, intanto disporre di un ambiente virtuale identificabile, tracciabile, protetto, adeguato alle esigenze della classe. Ci vuole un doppio virtuale della classe reale. E questa diciamo doppio virtuale della classe reale fa da repository, da contenitore dei materiali che l'insegnante ci ha messo, ricavandoli dal web, dal materiale editoriale e da quant'altro, per fare lezione, e oltre a questo ci mette delle griglie di lavoro che gli studenti debbano seguire. Poi gli studenti, in questo caso sì, su un setting diverso, cioè gli studenti in piccolo gruppo, quindi con banchi disposti a isole, lavorano in 4-5 con una macchina, appunto, che qui torna il ragionamento. Quindi esatto, diciamo l'esperimento dell'Università di Chicago è esattamente quello su cui si sta ragionando a livello globale, non è il peregrino 5 perché è un numero come tanti. No, non è un numero come tanti, 4-5 è la dimensione del piccolo gruppo all'interno della quale è provato che si possono sviluppare delle relazioni significative, quindi una macchina per 5 persone perché permette di cooperare, ma permette anche all'insegnante, anche se è uno, ce ne vorrebbero un paio, ci vorrebbe qualche tutor, ma insomma di gestire l'attività dei ragazzi, perché ci sono 4 gruppi, 5 gruppi, e questi 5 gruppi sono molto più gestibili di 25 bambini, e poi gli studenti producono in qualche modo all'interno del digitale, ma o con il digitale, pensiamo alla potenzialità di girare i video o di fare interviste che permette un tablet. La cosa interessante di tutto questo è che l'avvio di questo processo si dà in classe, ma poi può proseguire anche a casa, risolvendo un enorme problema dei genitori italiani, quello dei compiti a casa. C'è una ricerca dell'OCSE che ci dice che gli studenti italiani o i bambini italiani sono quelli che fanno più compiti in assoluto rispetto ai paesi OCSE e che ottengono poi risultati anche minori. Perché? Perché i compiti sono gestiti dai genitori, e siccome i genitori non sono tutti ad uguale livello di preparazione, è evidente che i genitori più avvantaggiati fanno fare meglio i compiti a casa ai loro bambini. Poi gli altri li passano ai compagni meno avvantaggiati familiarmente, quindi alla fine poi c'è un'impossibilità anche di gestire e valutare quello che è il progresso di ogni ragazzo. Esattamente, poi nei test standard che vengono fatti risulta che l'Italia è al posto al mondo con il più grande divario tra bambini svantaggiati economicamente. Quindi invece di telefonarsi a casa, scambiarsi al telefono i compiti, iscriversi su Facebook, avrebbero il loro ambiente in cui si incontrano, fanno i compiti, e come stare in un social network dedicato e mirato al loro apprendimento. Come dice una pubblicità di Radio 24 recentemente, che dice con il commercialista a bordo, in questo caso invece che il commercialista, c'è l'insegnante a bordo che governa il traffico e aiuta i genitori a non perdere decine di ore a casa facendo ricerche poco sensate su internet con i loro figli. Grazie Paolo Ferri, grazie Stefano Morigi. A domani.